Benvenuti a tutti al nuovo episodio di Fitness Discovery, quindi questo podcast che è nato da poco ma che già sta avendo un ottimo successo, specialmente sulle classifiche iTunes. Stiamo scalando. Ho visto che eravamo al 13° posto già in questa settimana in Italia sulle classifiche. Quindi piano piano stiamo scalando le vette della sezione fitness e salute di iTunes. E chi vi parla è Lorenzo Vieri, che avete avuto modo di conoscere negli scorsi episodi, e Enrico Dell'Olio naturalmente. E oggi abbiamo un ospite con noi, un caro amico e preparatore atletico espertissimo nel ciclismo, che salutiamo, che è Paolo Rossini. Buongiorno a tutti. Bene, perché abbiamo invitato Paolo? Paolo è prima cosa un amico e un collega di lavoro, e è specializzato nella preparazione atletica del ciclismo. Quindi. Ciclismo, sì, sport aerobici in generale e di potenza. Dunque, da cosa nasce? Nasce dal fatto che due settimane fa, ormai, siamo stati, come vi abbiamo raccontato nel primo episodio, a questa convention a Padova, sì, dove oltre a tutta una serie di lavori emersi sull'allenamento per la forza, sono emerso anche una serie di dati interessanti legati all'allenamento per la forza per quanto riguarda l'abbinamento di essa alla preparazione di sport aerobici, quindi alle competizioni ai massimi livelli aerobici. E appunto è emerso questi tipi di allenamento siano estremamente importanti e migliorino molto le prestazioni. Poi entreremo magari nel dettaglio in maniera più marcata. Ed ecco perché Paolo da molto tempo utilizza gli allenamenti di forza in abbinamento alla preparazione. Alla classica preparazione. 15 anni. 15 anni più o meno. Io e Paolo, 17 anni. Se vuoi aggiungere già qualcosa, siamo pronti. Sì, ecco, innanzitutto Paolo, raccontaci un po' di te, chi sei e che cosa fai appunto. Beh, io sono, appunto, come hai detto tu prima giustamente, sono un preparatore atletico, lavoro in questo campo da 17 anni, 18 quest'anno. Ok, ho un passato da atleta nei sport aerobici, ero un ciclista e sono riuscito a trasportare questa mia passione, ok, del ciclismo proprio, e fatto il ciclismo è fatto fare. Sono laureato in scienze motorie, prima ISEF e poi scienze motorie, e insomma ho fatto tutto il mio piccolo percorso e sono arrivato a un discreto livello. E ad alcune conclusioni tra l'altro interessanti che coincidono, sì, con quello che è. E ad alcune conclusioni interessantissime. Prima di tutto il lavoro in palestra, che ritengo migliore in assoluto, con l'alta intensità. Penso di essere proprio qua a parlare nel posto giusto, perché ho il papà e il figlio dell'alta intensità qua davanti a me. Ok, e sono riuscito appunto tramite il mio feedback, il mio background, scusate, a trasportare quello che era la mia esperienza nella preparazione atletica, quindi prendere quello che erano le mie sensazioni, scorporare il gesto atletico, riprendere le sensazioni, vedere come fare a migliorare il gesto appunto nelle varie dinamiche, nei vari momenti. Esatto, perché cioè, nelle attività di tipo aerobico generalmente, Paolo, sappiamo che la tendenza dominante è quella di utilizzare principalmente attività di tipo aerobico, o comunque di dissociare quelle che sono le attività di potenza anaerobiche, lattacide e lattacide, da quelle invece prettamente aerobiche. La tendenza è stata quella, e anche in questo modo i programmi di allenamento hanno seguito quella che era la tendenza. Assolutamente, sì. E sappiamo anche che ci sono molti preparatori atletici, anche medici, che ci dicono che le attività di tipo aerobiche devono essere incrementate e implementate attraverso allenamenti prettamente aerobici, addirittura consigliano allenamenti in palestra. Sei d'accordo su questo? Allora, assolutamente no. Lo sport aerobico è uno sport con mille sfaccettature, mille momenti. Ok, in base al momento della stagione bisogna consigliare, più che propinare, all'atleta in questione una metodologia ben precisa di allenamento. Adesso siamo in una fase importantissima della stagione che molti invece ritengono che sia un attimino un po' scarsa, che è la fase invernale. Lo sport aerobico di solitamente ha una stagionalità primaverile, estiva e autunnale, quindi nella parte invernale molti pensano: bene, adesso non ho le gare, riposo. Assolutamente sbagliato. La fase invernale è importantissima. già il nostro amato Fausto Coppi diceva che le gare d'estate si vincono d'inverno, non perché era uno stolto, ma proprio perché aveva capito che in momento invernale, fase riflessiva, penso a come è andata la mia stagione, ho degli obiettivi ben precisi per la stagione successiva, come faccio adesso per migliorarmi? In sostanza, okay, semino per poi raccogliere. In sostanza io dico che lo sport di potenza applicato allo sport aerobico, e quindi l'attività di potenza applicata allo sport aerobico, e quindi la palestra è un banco di lavoro, ok? Io in palestra modifico la mia struttura fisica per poter poi riuscire meglio nel mio gesto atletico. Okay? Assolutamente sì. Io vorrei aggiungere un'altra cosa, c'è stata per molti, molti anni una dissociazione, diciamo, tra attività aerobica, anaerobica e metabolismo inerente alle attività aerobiche e anaerobiche, tipo di fibre rosse e fibre bianche. In realtà noi sappiamo che l'esercizio non possiamo dividerlo per scompartimenti fissi oggi, e tutti i tipi di fibre, le fibre bianche di tipo 1, le fibre rosse di tipo 2, A, X, eccetera, in realtà, così come anche i metabolismi energetici anaerobico, lattacido, alattacido e aerobico, entrano durante un'attività di tipo aerobico di potenza in vari momenti in supporto all'attività stessa, per cui non è completamente separabile un tipo di attività da un altro, un metabolismo dall'altro, ma tutti si integrano in modo sinergico per produrre il risultato finale. Sei d'accordo tu, Paolo? Assolutamente, assolutamente. Io il ciclista o il maratoneta arriva con tutti i mezzi all'obiettivo, e se per un difetto di allenamento aerobico non ha abbastanza preparazione di base di fondo, andrà a sopperire a questa mancanza con l'utilizzo di altri metabolismi. Comunque lui ha l'obiettivo ben preciso e lì deve arrivare, quindi cercare di sviluppare appunto una forza a 360 gradi anche negli sport aerobici è fondamentale, fondamentale. Sì, no, infatti, ricollegandomi, Paolo, al discorso della International Conference on Strength Training, a cui abbiamo partecipato io e Lorenzo, e c'era appunto, sono emersi parecchi lavori sulle attività di tipo aerobico, nella fattispecie il ciclismo, dove si parlava appunto di atleti allenati con metodiche classiche e atleti allenati invece con metodiche classiche abbinate ad allenamenti per la forza in palestra, quindi sovraccarico progressivo con i pesi. La differenza principale che si è notata durante queste sperimentazioni è che l'atleta, diciamo, allenato in modo convenzionale, aveva una buona performance per quanto riguardava, o molto simile per quanto riguardava la prima parte della corsa in piano, ma variava molto, cambiava molto quando si invece doveva impegnare nelle salite o addirittura nella volata. Gli atleti che avevano fatto anche la preparazione in palestra riuscivano ad avere dei rendimenti per tempi maggiori e superiori rispetto a quelli classici, che in questo modo potevano addirittura stravolgere completamente il risultato finale. Sì. Vuoi aggiungere? Pensi che uno delle obiezioni che si potrebbe fare a questo tipo di approccio, quindi alla preparazione invernale in palestra, è quell'aumento muscolare che si ha in risposta a questi allenamenti, e che secondo alcuni fautori, quindi della preparazione aerobica pura per questi tipi di competizioni, che appunto sostengono che l'aumento di peso può essere svantaggioso ai fini della prestazione. E cosa ne pensi al riguardo? Pensi che sia un problema o che ci siano dei vantaggi a... Allora, io dico sempre, l'aumento di peso sulla pancia ti tira indietro in salita, l'aumento di peso sulle gambe ti porta più in alto, ok? È vero che il ciclista deve essere secco, più leggero più guadagna il rapporto peso-potenza, soprattutto in salita, e quando molti pensano che sia importante solo in salita, e io ho dimostrato a molti velocisti che si sono riferiti a me che invece l'aumento di peso è deleterio in quanto a grasso, ed è deleterio anche per i velocisti stessi, perché perdono in esplosività iniziale, c'è più inerzia da vincere per portare la bicicletta da 50 o 55 all'ora a 60 all'ora, cioè ci impiegano più tempo, e quindi nella volata, adesso nella fattispecie stiamo parlando del ciclismo, dove ha più margine di parola, perché sono un attimo più arrivato. La cosa fondamentale per un velocista che parte davanti è riuscire a dare subito 2 o 3 metri a quello che lo segue a ruota, così facendo lo lascia in gergo al vento, scoperto dalla scia, e quindi parliamo di pura potenza, e con più difficoltà riesce poi a saltare il ciclista davanti, che quindi il peso è fondamentale nel ciclismo. però è un peso da non ritenere in maniera assoluta, secondo me. Chiamiamolo qualitativo. È un peso qualitativo. Io se peso 80 kg e riesco a spingere però 1000 watt, sono un rapporto peso-potenza. Esatto. Rapporto peso-potenza, i calcoli sono calcoli. C'è quindi anche da dire però un'altra cosa, che in tutti gli studi noi possiamo modulare l'aumento di forza senza tuttavia aumentare la massa muscolare, sì, o aumentarla in maniera... Bravissimo. Anche bravissimo. Perché poi c'è un'alimentazione e dopo l'alimentazione ad hoc. E poi io ho lavorato in palestra da quasi 20 anni e ho visto gente che per aumentare di un chilo ci ha messo anni. Ok, quindi non è così semplice. Sfattiamo questo. E poi un'altra cosa, i ciclisti vengono qua e hanno paura di aumentare di peso. Io glielo racconto sempre, guarda che se anche se aumenti di mezzo chilo nel giro di 15 giorni, con mezzo chilo l'hai già perso. Sì, sì. Ok, sì, quindi sì. È uno spauracchio messo in giro. Vogliamo ricordare la forza da che cosa è data fondamentalmente, quali sono cos'è che incide di più sull'aumento di forza? Beh, noi sappiamo, per il 50% la forza sviluppata da un muscolo è data dalla sua sezione, sostanzialmente dalla sezione dal suo volume. E questo è il 50%, e potrebbe collegarsi al discorso che facciamo sull'aumento di peso. Tuttavia è genetico, quindi, come dicevi giustamente tu Paolo, la maggior parte delle persone non è predisposta per grosso aumento di peso. Gli hard gainer, ma a noi ci interessa poi adesso a questo punto gli altri due fattori, ce ne sono svariati altri, però ci sono altri due fattori che sono estremamente importanti. Uno su cui non possiamo agire, che è l'inserzione all'origine dei tendini, secondo che crea una leva più vantaggiosa o svantaggiosa, e invece quello che interessa più a noi è il miglioramento del reclutamento delle unità motorie nell'unità di tempo. La capacità di utilizzare più fibre muscolari nell'unità di tempo, quindi nelle attività di tipo anaerobico, di potenza, eccetera, ci alleniamo a far quello. Quindi senza aumentare di peso possiamo aumentare la forza in maniera progressiva di supporto poi all'attività aerobica, senza tuttavia rischiare d'accordo. Di perdere la prestazione. Assolutamente d'accordo. Per cercare di appunto di arrivare ai risultati che ci stiamo dicendo adesso, ho sviluppato una metodica di allenamento, secondo me Raffino non ha inventato niente. Ma anche mettere insieme le cose. Bravissimo. Sembra di aver inventato l'acqua calda delle volte. Ok, ho preso il gesto atletico, ciclista ad esempio, adesso stiamo parlando di quello, okay. L'ho composto in 1000 parti e ho cercato di allenare le sensazioni di ogni singola parte, quindi i momenti di crisi di ogni singola parte. Ok, ad esempio, un lavoro che mi sta uscendo benissimo con i velocisti sono questi lavori, e stavolta esco dal mio dalla mia religione di alta intensità, che sono, tu? Sono lavori alto volume, ma sono simulazioni di gara alla fine, certo. Okay, quindi alta intensità, esco dal mio credo alta intensità ed entro per un attimo nell'alto volume. Bisogna modulare tutto, secondo d'altronde alta intensità. E per me la metodologia di allenamento numero uno per l'aumento di massa muscolare, per l'incremento di forza, mentre invece se facciamo un lavoro come banco di lavoro in palestra per trasportarlo poi in uno sport aerobico, devi andare un attimo a simulare le varie fasi di gara, certo. Ok, quindi io riesco a simulare con un determinato lavoro su un macchinario, su una pressa, riesco a simulare l'ultimo chilometro, la trasformazione in esplosività per la partenza del ciclista quando lo mollano a 300 metri, ok, e il lavoro del ciclista di 300 metri fino all'arrivo, ok, in base alle varie pecche, diciamo, che ha un velocista in volata, riesco ad andare un attimino a correggere la sua progressione. È un lavoro specializzato in una porzione specifica della gara. Assolutamente sì. Ma anche sull'atleta, cioè questa è una cosa, è una doppia specificità, lavoro importante. Lavoro super specifico, ormai non possiamo più ragionare come si ragionava una volta. Questo è l'allenamento da fare in palestra, invece di non fare un cavolo a casa, che siete lì a guardare la televisione tutto il giorno. Una volta c'era solo la televisione, non c'erano i computer, e invece la cosa che sentivo di più, invece di star lì alla tele tutto il giorno, vai in palestra che così ti muovi. Ma l'importanza che l'ha data la palestra era pari a zero. Adesso invece specificità assoluta, il velocista non può fare il lavoro dello scalatore e viceversa, il passista dovrà fare il cronometro, dovrà fare un tipo di allenamento su misura per sé. Ok, quindi come dici tu giustamente, lavoro super specifico, il velocista deve fare un lavoro, lo scalatore un altro, ok, e tutti e due devono far fatica e tutti e due devono spingere sulla pressa o sulla leg extension, sulla leg curl, come se fosse l'ultima ripetizione della vita. Se vieni qua a muovere, a fare aria con i pesi, non serve assolutamente niente. E questo penso di averlo trasmesso ai miei atleti. Quest'anno i miei velocisti hanno inanellato una quindicina di volate, quindi non penso di essere andato molto lontano da quello che può essere la cosa corretta. Ecco. Diciamo c'è ancora margine di miglioramento, ma comunque sei sulla strada sicuramente è corretta, perlomeno rispetto ai tuoi pari che usano altri approcci, insomma. Assolutamente, ma più che altro ho visto come rendimento come i miei atleti vincono le volate. Ok, curando tutte le varie fasi, tutti i vari aspetti del gesto atletico, hai dei risultati eccezionali. Cioè una volata, ne cito uno tra tutti perché lo alleno da quando ho 14 anni, Nicolas Marini, che è passato professionista quest'anno alla Nippo Vini Fantini e De Rosa biciclette, arrivava in fuga, lui faceva una volata di gruppo e arrivava con 4-5 metri al secondo, una vita. 4-5 metri in 300, quindi conta quanto è in percentuale, è una roba, cioè vuole dire che andava 2 km in più degli altri, 1,5 km in più. Beh, una cosa che è emersa durante la discussione su quello che stavi dicendo è la soggettività nel creare un percorso individuale in base alla risposta soggettiva degli atleti. Anche questa è una tendenza molto che sta consolidandosi nel tempo e fortunatamente hanno incominciato i preparatori atletici non solo a passare per grammi uguali per tutti, sostanzialmente tabelle di allenamento che erano uguali per una persona di 20 anni, una persona di 40 anni, una persona che aveva determinate capacità, ma incominciano in qualche modo i più bravi a tener conto di quella che è la soggettività dell'atleta e la strutturazione dei programmi che gli vadano dietro. Sostanzialmente hai fatto un lavoro che è assolutamente corretto. La specificità, esattamente. Assolutamente, un'ottima testimonianza, sicuramente, un approccio davvero piuttosto innovativo. Sì, insomma. Esatto. E poi, come stavo dicendo prima, varie fasi: sport aerobico, fase invernale, fase primaverile, inizio gare, fase estiva. Naturalmente, lo sportivo aerobico dice: io corro in bici, devo andare in bici. Assolutamente, assolutamente sbagliato. Io lo sto predicando da 12 o 13 anni. La palestra non deve essere mai mollata. Molti lavori di forza che i ciclisti fanno in bici potrebbero essere fatti senza nessun tipo di rischio articolare o roba del genere, direttamente in palestra. Assolutamente. Ok, però la palestra appunto viene vista anche da molti miei colleghi o anche gente più blasonata, viene visto come un lavoro deleterio che va a rovinare un attimino le fibre muscolari. C'è niente di più sbagliato, non si rovina assolutamente niente, e solo da guadagnare se fai un tipo di attività di forza. Assolutamente. Quindi sì. Fase invernale dove si lavora un attimo di più di potenza, fase primaverile estiva dove naturalmente il gesto fisico, l'attività sportiva di riferimento, ponderante, bravissimo, ma un mantenimento, sì, mantenimento. Nell'ambiente sportivo a molti piace la parola richiamo. Uh-huh. Ok, che poi cosa devi richiamare, però comunque un allenamento che non è un richiamo, perché un richiamo è una cosa che fai intanto tanto che pensi di non hai nient'altro da fare, fai quello. No, è un allenamento specifico, vero, fatto, perfetto, vero e proprio, calibrato sulle esigenze della persona in funzione di quello che è stato fatto. Ma certo che se d'inverno si va in palestra tre volte a settimana, ok, d'estate si va una, ma anche chiaro. Perché gli appuntamenti agonistici e gli allenamenti sono talmente intensi che il rischio del sovrallenamento è sempre presente. Assolutamente. Anzi, molti ciclisti che ragionano solo alto volume, invece io sono l'assertore per eccellenza del mi alleno meno e meglio e riposo di più. Okay. La minima quantità necessaria per avere l'allenamento richiesto, ecco. non vuol dire un'ora di bici o un'ora fuori piedi, certo. A posto, chiaramente, però i giusti carichi, giusto carico, giusto scarico. Io ho notato nei miei atleti un aumento di peso di un paio di chili, però in faccia non c'erano le guance, erano muscoli, e la venatura, o come la chiamano, la svenatura, molti sulle gambe era una cosa terribile, c'erano cartine geografiche. Quindi gambe da culturista. Quindi gambe da culturista, gambe da culturista su degli scalatori. Perfetto, perfetto. E che scalatori? E che scalatori, come voglio dire, ecco. Dopo, no, sicuramente la materia prima c'è, però stiamo parlando un attimino di atleti evoluti, quindi sono tutti sempre più o meno sportiva di sopra della media. Esatto, cioè. Vabbè, sì, stiamo parlando sempre di. Stiamo, quindi mai mollare. Di campioni. Io non farei mai mollare l'appuntamento in palestra. In palestra. No. Quantomeno settimanale. Settimanale, dopo capita, no? Ogni 15 giorni? Perfetto, scarico. Perché hai una gara a tappe da fare, ma dopo naturalmente. Certo. Va ribilanciato tutto, va tutto in funzione della stagione. In maniera specifica. Appunto, per ritornare, che la parola per me che deve essere più ricorrente in assoluto nelle preparazioni atletiche, la specificità. Io sono simile agli altri, ma sono profondamente diverso. I programmi di allenamento deve essere fatto per me e non per me. Esatto. I programmi di allenamento devono essere ritagliati sulla persona come un vestito d'un sarto. Certo. Dopo certo che si assomigliano, gli esercizi sono quelli. È chiaro. Chiaro. Sono quelli, però. Chiaro. Non è che un curl con bilanciere piuttosto che uno squat non è che possiamo modificare. È sempre lo squat, è sempre il curl con bilanciere. Esatto. È il volume, la frequenza, l'intensità e il sovraccarico progressivo che devono essere. Sì, eventualmente il range di movimento, se vogliamo allenare qualche range di movimento. Chiaro. Visto velocisti senza braccia, come fai a tirare sul manubrio? Un sottopotente, una gamba potente, lavora in bici solo se è supportata da un sopra abbastanza potente da contrastare le tensioni. Ecco un'altra cosa molto importante, esatto. Non si allena solo le gambe. Oggi no, assolutamente, forse è vero, ho fatto un attimino. Un dettaglio che di sembra un dettaglio, ma in realtà. Mi sono riferito prima a un lavoro ben specifico che faccio fare su un determinato macchinario per aumentare la potenza, quindi delle gambe, certo. Alla fine. Però la potenza, come dicevo, della Pirelli è nulla senza controllo, se non ha la parte sopra che tiene il manubrio, invece di restare con il sedere alla stessa altezza, le gambe farle scendere, i piedi farli scendere sui pedali, il sedere si alza. Bisogna sempre considerare quindi che magnifico la spinta. In più, ecco, no, non solo la potenza funzionale, cioè quella di cui stiamo parlando adesso, cioè la capacità di tenere il manubrio saldo, se no la spinta viene vanificata. Ma anche muscoli che tendenzialmente potrebbero sembrare meno significativi all'interno del gesto atletico, della postura, sono estremamente importanti. Beh, certo. Ma non solo per la forza espressa nel determinato momento, ma dobbiamo sempre ricordare che il corpo, che l'essere umano, così come tutti gli esseri biologici, sono degli organismi complessi che lavorano in sinergia con tutte le proprie strutture. Indebolire una struttura, d'accordo, vuol dire non poter sviluppare completamente neanche le altre. Il corpo cerca sempre di riadattarsi costantemente, certo, a quelli che sono degli squilibri. Se noi squilibriamo troppo da una parte, non riusciamo ad avere lo stesso effetto o un effetto generale più completo nel sistema, in questo caso il sistema, certo, biologico che stiamo prendendo in considerazione. Ed è il motivo per cui oggi i calciatori, così come i centometristi, vengono allenati nel toto rispetto agli anni 30, in cui si pensava che il centometrista dovesse far solo le gambe. Hanno capito che poi, se non facevano anche le spalle, le braccia, la parte alta, le gambe non crescevano, non rispondevano nella stessa maniera. Poi c'è un rischio magari di maggiore infortunio. Oltre tutto, chiaro, uno squilibrio del ciclismo, ma so che ci sono infortuni molto comuni, e l'ernia del ciclista. Che è assurdo, perché nel ciclista la schiena non lavora, perché, esatto, sei appoggiato con le braccia, sei appoggiato col sedere. Come fai ad avere la colonna sotto stress? Io ho curato tantissimi mal di schiena aumentando la forza delle braccia. Perfetto. Se hai forza nelle braccia ti appoggi sul manubrio, se ti appoggi sul manubrio e non hai cali di performance delle braccia, la schiena non è così. Questo è un altro dato importantissimo. Se invece non ho forza, vado indietro sulla sella e tutte le buche le prendo nella parte lombare. E per quanto riguarda la nutrizione invece per questi atleti? Sì, ci avevi detto che stavi... Nutrizione nei ciclisti penso al medioevo, zollette di zucchero e grandi pasta asciuttate e risi in bianco e quelle robe lì. Quindi non vorrei neanche addentrarmi in questa cosa, perché è un vaso di Pandora. Aprirlo è. E quando dici a un ciclista: guarda, mangia un po' più verdura, frutta, e mangia un po' meno pasta, metti dentro anche un po' di proteine, carne, uova, mi guardano come se fossi un marziano. Cioè. Ma da dove nasce questa leggenda di queste grandi abbuffate? Come tutti gli sport, il ciclismo è uno sport vecchissimo, cioè, pensate, sembra assurdo, ma era più conosciuto del calcio negli anni 50. Era uno sport più importante. Coppie Bartoli, eravamo i super campionissimi, ce l'avevamo noi, e la storia l'ha fatta l'Italia. e quindi è uno sport vecchio, e come tutti gli sport vecchi tra virgolette sono molto legati alle tradizioni, e quindi ci si allena ancora come coppi. Ce lo insegna, nel futuro ci mangia come coppie, e si mangia come coppie, ragazzi, le pasta asciuttate. Coppie erano fortunato perché mangiavano, molti non mangiavano neanche quello. C'era solo quello, c'era solo la pasta asciutta, c'era solo la polenta, quindi io aggiungerei che, come ci raccontava David Hume nel suo trattato sulla natura umana, le formalità, le convenzioni sono quelle che vengono portate avanti per più tempo, indipendentemente dall'esattezza, no, di una teoria o di un'ipotesi di lavoro. E questo succede nella scienza, ma succede anche nello sport. Le persone si affezionano a quelle che sono le consuetudini. Bravissimo. Adesso che abbiamo degli stili di alimentazione molto più bilanciati, ok, sta passando la moda in questi anni della dieta dissociata degli anni 80, cioè per dire, esatto, diciamo, il ritardo di 30 anni nel ciclismo, podismo ancora peggio, sì, ben po' più, sì, in sci di fondo, così sono proprio in ritardo. Poi ci sono le mosche bianche. Secondo te perché sono così in ritardo? Al di là del discorso che è correttissimo che abbiamo fatto sulla natura umana, perché, e sulla ci sono dei problemi effettivamente nello sport, senza parlare del bodybuilding che è il nostro settore di riferimento, ma entriamo nel ciclismo o negli altri sport arti marziali. Ma come in tutte le cose, anche la dietologia italiana è ancora fisso sulla dieta mediterranea come la migliore in assoluto. È stata la dieta mediterranea, che poi non è neanche la dieta mediterranea, se andiamo ad analizzare bene, era un altro tipo di alimentazione di prima della scoperta dell'America. Bravissimo. Non c'era la pasta, ecco, la dieta occidentale. E quindi pensa allo sportivo che si sente la solita solfa da mille anni, se vuole rischiare per magari ottenere qualcosa di meglio, quando può rimanere com'è e non sbagliare sicuramente, certo. O meglio, puoi pensare di non sbagliare. All'inizio della discussione abbiamo parlato di fibre bianche, fibre rosse, metabolismo energetico, cioè, per noi è cosa normale, se ne discute, c'è un biologo, un nutrizionista, un preparatore atletico e via di seguito, sono cose acquisite. In realtà però nel mondo sportivo, nel ciclismo piuttosto che il podismo, le arti marziali, la box eccetera, generalmente il preparatore atletico è una figura che in compasso, che racchiude tutte le altre figure, quindi racchiude il nutrizionista, racchiude il massaggiatore a volte, il preparatore atletico, il tecnico. Sulla parte tecnica, nella bolla spesso ci si azzecca, perché sono persone che vengono direttamente da quello sport, magari hanno avuto dei buoni risultati. Hanno delle esperienze, anche se non hanno praticato direttamente, esatto. Atleti. Ma per tutti gli altri aspetti, molto spesso queste persone, la verità è che fanno due lavori, magari fanno durante il giorno il barista e poi allenano una squadra di calcio piuttosto che le cose. Sì. E io non ho niente contro il barista, ma non studiano, è quello il problema, non studiano. Quindi al di là delle qualifiche, mancano proprio le competenze. I più bravi studiano comunque, i più bravi. Io ho la fortuna di collaborare con tecnici veramente molto preparati, che alle volte io prima di tutto non lavoro, io collaboro, io dico sempre così, collaboro, perché un tecnico ha sempre il termometro per misurare la fibra dei propri atleti, se poi è attento come quelli con cui collaboro è una cosa spaziale. Cioè, io magari do una programmazione atletica completamente differente da quella che avevo pensato all'inizio, perché l'allenatore mi dice: guarda che questo ti dice che non va qua, ma stai attento che non va lì perché gli manca una determinata base da un'altra parte, quindi naturalmente lì non può andare. Il feedback con altri professionisti è fondamentale, capito? Quindi fortunatamente collaboro con persone molto preparate, preparate, sì. Però vedi tutto in giro, soprattutto nelle categorie più sensibili e più delicate, che sono quelle giovanili. Mm-hmm. Ecco, quello lì è un bel problema. Io ho sempre un'altra cosa che manca molto negli sport, è il discorso conosco il mio atleta, gli faccio fare, ecco, e gli spiego cosa sta facendo. E gli sport aerobici sono pesanti da fare, hanno allenamenti molto lunghi psicologicamente. Un ragazzetto di 15 anni va a scuola alle superiori, viene via dalle medie dove magari è coccolato dalla professoressa del paesino, ok, va alle superiori, va in un'altra realtà, ma trattato da persona più adulta, si trova a dover studiare la mattina 6 ore a scuola, che non sono più 5 ma sono 6, più 3-4 compiti. Io mi ricordo, tornavo a casa e c'era fuori l'ammiraglia, non c'era fuori la macchina di mio papà da casa mia, c'era fuori l'ammiraglia della mia società che mi aspettava. Quindi andavo a casa, mangi un panino, pronti via, vai e raggiungi i tuoi compagni di squadra. Se non sei fortemente motivato, chiaro, quelle robe lì pesano. Sì. E quello che manca nel ciclismo e negli sport aerobici è che l'allenatore ti dà un allenamento da fare, ma non ti spiega cosa stai facendo. E se non ti spiega cosa stai facendo, la consapevolezza è fondamentale, rendi, anche rendi per maturare il 30%. C'è anche una chiave psicologica, insomma, nel far capire l'atleta. Infatti quando propongo il mio allenamento agli atleti, gli dico, li facciamo, faremo una programmazione che dura 5 settimane, poi ci rivediamo, testiamo, vediamo a quel punto siamo arrivati, vediamo cosa abbiamo raccolto, i frutti che abbiamo raccolto, se li abbiamo raccolti magari è andata male, però non penso, piano, speriamo di no, che sia il mio lavoro, e poi ci porremo degli altri obiettivi e faremo un allenamento per perseguire questi altri obiettivi, cioè gli atleti mi guardano con la bocca aperta. Dice, mai, non è mai dicono, successo. Che figata, che bello. Figa, che bello. Perché l'allenamento non dura più 3 ore, ma dura tanti 10 minuti. Certo. E un 10 minuti passa in un soffio. Esatto. Soprattutto se fai lo sport che ti piace di più. Esatto. Assolutamente. La cosa bella può essere quella. E ultimamente hai presentato questo gruppo di lavoro per la preparazione atletica invernale, e se ci racconti qualcosa a riguardo? Sì, ho presentato, mi è venuta l'ispirazione non più di un mese fa, un progetto che ho chiamato Winter Training. È un progetto che ora nasce per gli atleti un attimo meno evoluti, quelli come me, ok, come me adesso, atleti magari amatori che vogliono prepararsi al meglio per la stagione successiva. Gli amatori sono gli più agguerriti, perché i ciclisti amatori o i podisti amatori prima di tutto non hanno 20 anni, e quindi hanno anche un certo approccio, vogliono avere una rivalsa in qualche modo sull'età, hanno anche un certo approccio allo sport, proprio lo fanno da persone più mature, quindi sì, sanno che devono fare 3 ore e le fanno, ok, per dire. E allora per gli atleti un attimo amatori più esigenti che non vogliono buttare via tempo, ho studiato questo tipo di allenamento, e che è un connubio tra allenamento in palestra subito trasformato tra virgolette in allenamento sul mezzo meccanico, ok, quindi dopo 2 allenamenti di potenziamento complessivo in palestra che si fa durante la settimana, ci si trova in palestra il venerdì sera, un orario post lavoro. Siamo fortunatissimi perché abbiamo tra l'altro un velodromo vicino, quindi si fa un'ora di palestra, tre quarti d'ora al massimo, che voi mi insegnate che è il tempo utile per fare un allenamento. Anche tanto volendo. Tre quarti d'ora, però siccome sei un piccolo gruppo si fa sempre un po' fatica a fare le cose troppo veloci. Hai capito? Chiaro. Infatti giusto. Ho scelto un'adesione massima a questo progetto di 8 persone e l'ho presentato la domenica sera, lunedì sera e avevo già raccolto tutte le adesioni, 8 persone per farne 10, ecco, ne ho già troppe, e quindi si fa un certo lavoro di preparazione in palestra, ok, seguito da una trasformazione, seguito da un lavoro di trasformazione del potenziamento direttamente sul mezzo meccanico nel velodromo di Montichiari. Sì, aggiungerei una cosa, perché ne parliamo in maniera scontata di quella che è allenamento in palestra e di trasformazione. La trasformazione, per chi non lo sapesse, è il tentativo di cercare di trasferire la nuova forza potenziale che abbiamo acquisito attraverso l'attività in palestra in forza cinetica nel movimento, nel gesto atletico. Assolutamente. Il problema quando noi andiamo a fare uno squat e facciamo un periodo di allenamento dello squat, e supponiamo che nei 3 mesi di allenamento per lo squat abbiamo migliorato la prestazione del quadricipite magari del 20-30%, passo da 100 kg di squat a 130, faccio degli esempi semplici naturalmente per farvi capire, non è detto che, anzi di solito assolutamente non hai un miglioramento del 30% di forza o di esplosività o di performance nell'attività di riferimento, quindi sono un centometrista, d'accordo, certo. Il motivo è dato dal fatto che il corpo deve sostanzialmente rieducare il giusto pattern, rieducarsi al giusto pattern di attivazione neuromuscolare per il trasferimento della forza potenziale a forza cinetica, sì, sì, sì, nel movimento, nel gesto atletico di riferimento. È per questo che si fanno queste trasformazioni. E l'abitudine al movimento, che non deve essere mai persa, quindi la coordinazione del movimento, l'esecuzione del gesto atletico, che è fondamentale. Infatti per questo molti preparatori atletici fanno e lasciare la bici a ottobre, all'atleta metà ottobre, fine ottobre, e fanno fare delle camminate, delle corse. Io ho avuto sempre più infortuni che in quel periodo qua, che benefici, quindi non faccio mai mollare la bici, magari faccio passare dal mezzo, che sì, è la bici da strada, alla mountain bike, per dire, ai rulli, ecco, perfetto, o allo spinning, però la pedalata deve essere il sempre, il gesto atletico deve essere sempre, è sempre rotonda e deve essere sempre mantenuta, la medicina. Sono d'accordissimo. Beh, direi che possiamo concludere qui la nostra discussione per questo episodio, direi. Sì, sì, io aggiungerei una cosa, che naturalmente Paolo lo trovate a Brescia, che non abbiamo detto, alla Keep Fit, quindi chiunque volesse contattarlo lo trova, è disponibilissimo Paolo anche per discutere eventuali preparazioni. Sì. E eventualmente online, come lo contattiamo? Online come lo contattiamo, Paolo? Potete contattarmi direttamente dal form di domande che c'è sul nostro sito. Vuoi dire il sito, Paolo? Keepfitbrescia.it, ok, oppure all'indirizzo di posta elettronica email.paolorossini@gmail.com, direttamente, se avete qualche domanda o richieste. Benissimo, io, visto la bella intervista, direi di programmarle più avanti qualche altra, eventualmente anche con le risposte di questo nuovo training camp che abbiamo ideato per quest'inverno. Sono entusiasta di potervi poi girare la mia esperienza, sì, anche perché penso che sia una cosa che porta frutti, perché è una cosa che nessuno fa, una cosa che nessuno conosce. Infatti nel proporla molti si sono gasati un attimo. Sì, perfetto, va bene, quindi ci vediamo al prossimo episodio. Salutiamo e ringraziamo Paolo. Saluti da Enrico Lorenzo. Perfetto, e alla prossima. Paolo, arrivederci.